Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoon animati.

Sono passati solo poco più di 10 minuti dall'inizio della seconda parte di Eclettica di quest'oggi, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, in voce è Giulio Caperdoni. Ma già sono 3 i brani che ci siamo ascoltati, come anche un incipit di Philip Roth che sto leggendo in inizio di settimana, e anche un estratto, uno sprazzo cinematografico da V for Vendetta, lo stesso film che già ci eravamo ascoltati anche la settimana scorsa. Per quanto riguarda i brani, prima da Toronto i P. Castro con Hortul, poi da Seattle Grand Archives Torn Blue Foam Coach, una buona produzione sub pop, per poi passare ai Correcto da Glasgow con Johnny, canzone di cui ho parlato settimana scorsa e vi ho detto anche di come nei Correcto ci sia un membro dei Franz Ferdinand, per arrivare ora a Detroit, città da cui proviene Carl Craig, carriera ormai ventennale per quello che è stato considerato come il fondatore della techno di Detroit, non solo un DJ che fa ballare migliaia di persone, ma anche un abile produttore, il quale arriva adesso con un doppio per la K7 intitolato Sessions, che raccoglie i remix più recenti di Craig, compresi quelli prodotti per il collettivo Dub Rhythm and Sound, ma soprattutto Like a Child dei Junior Boys. Thank you. What we need right now is a clear message to the people of this country. This message must be read in every newspaper, heard on every radio, seen on every television. This message must resound throughout the entire interlink. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every man, woman, and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. Intorno alla fossa, nel cimitero in rovina, c'erano alcuni dei suoi ex colleghi pubblicitari di New York, che ricordavano la sua energia e la sua originalità, e che dissero alla figlia, Nancy, che era stato un piacere lavorare con lui. C'erano anche delle persone venute su in macchina da Starfish Beach, il villaggio residenziale di pensionati sulla costa del New Jersey, dove si era trasferito dal giorno del ringraziamento del 2001. Gli anziani, ai quali fino a poco tempo prima aveva dato lezioni di pittura. E c'erano i due figli maschi delle sue turbolente prime nozze, Randy e Lonnie, uomini di mezza età molto mammoni, che di conseguenza sapevano di lui poche cose encomiabili e molte sgradevoli, e che erano presenti per dovere, e nulla più. Questo era l'incipit di Every Man, di Philip Roth. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.